Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ciao a tutti, quando ci sono le nazionali ci annoiamo un po' e serve fantasia. Oggi spacca l'esito del questionario anonimo pubblicato dalla Gazzetta dello Sport tra i giocatori di Serie A su vari temi semplici, tra cui razzismo, depressione, omosessualità, eccetera, eccetera, eccetera. A costo di fare i copioni come a scuola, facciamo il questionario anche noi. Rigorosamente anonimo, 800240024, vostro numero verde, tutto rigorosamente anonimo. Dunque, questionario, Pierluigi Pardo. Sì, buongiorno, presente. Chi è il tuo telecronista preferito? Non so, non risponde, vai. Hai notizia di telecronisti gay? Non so, non risponde. Hai mai fatto l'ultra? No, questo proprio no. Hai mai intonato coni a sfondo razziale? No. Qual è il giocatore più eccitante? Da che punto di vista? Calcistico. Calcistico, Tony Adams. Tony Adams? Sì, Tony Adams è tutto, è dipendenza, è alcolismo, è fedeltà, è spalle larghe, è piedi abbastanza quadrati, è capoccione. Hai qualche problema? Sì, molti. Molti. Tra l'altro dopo faremo anche la posta del cuore, perché oggi la gente volevamo fare una puntata alternativa. Quindi potete chiamarci all'800 00 24 00 24 800 24 00 24. Non si è capito nulla. Sai, Pier, ma d'altra parte da una se puoi ancora una domanda per te. Sì, vai. Non hai nessuna per me. Meno male. Posso chiederti se pensi. Cosa pensi degli aiuti tecnologici per gli arbitri? Sono contrario alla pentola a pressione e alla moviola, l'ho detto molte volte. Massimo sensori sulla linea di porta, oltre a quello non si va. Chi è il miglior arbitro di Serie A? Non so, non li conosco. In Italia un calciatore nero fa carriera più difficilmente rispetto a un calciatore bianco? Assolutamente no. Chi è il giocatore più sopravvalutato tra chi ha giocato nella Serie A 2012-2013? Non può essere un tuo compagno di squadra, quindi non posso essere io? Non me li ricordo più. No, ma sopravvalutati ce ne sono tanti, non ce n'è nessuno. Il mercato decide. Bene. No, non ci ho capito niente. Comunque arrivano già i primi messaggi. Politici, ladri. Ah no, questa era la trasmissione di prima. Politici, senti, ladri, sì. No, oggi vogliamo riprenderci perché la settimana non è stata semplice. No, non è stata semplice. Aspettiamo, vabbè, facciamo il piccolo aggiornamento. Domani ci sarà la sentenza definitiva sul discorso dello stadio San Siro per Milan-Udinese. Chiaramente sarà una sentenza che sarà uno spartiacque, perché se dovesse arrivare un volemose bene, allora vuol dire che evidentemente le norme stanno cambiando. Se dovesse esserci invece la conferma della chiusura di San Siro, insomma, sarebbe un precedente inquietante. Ci dicono, riditelo per bene il numero, che non si è capito, un Kaiser Franz Beckenbauer, storico, però io ancora non l'ho imparato, quindi 800 24 0024. Esatto. Facile. Franco Piantanini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia come sempre. Anche posta del cuore oggi. Perché secondo te, altra domanda, perché secondo te va così di moda la terza età nel calcio? Totti ne abbiamo parlato un sacco, adesso oggi leggo anche che Di Natale si autocandida per i mondiali. Tonin, vabbè, mi sembra decisamente fuori quota. Però perché va così di moda la terza età? Potremmo dire con cattiveria, perché forse i giovani sono meno bravi dei vecchi, ma in realtà io penso che poi alla fine la terza età va di moda perché ci sono 4-5 giocatori. In questo momento il più caldo di questi è sicuramente Totti, che riescono a unire a un talento incredibile una straordinaria conservazione del proprio fisico. Cioè, la cosa incredibile di Totti di questi ultimi mesi è che sta bene, che sembra un 25enne. Sì, questo è vero, però devo dire che anche nell'opinione pubblica la terza età va sempre molto di moda. Cioè, ma sono bandiere, sono leggende, cioè Totti, Del Piero, Baggio, ma solo Baldini. In Italia però, perché all'estero non è esattamente così. Non è vero il tutto, insomma, ma poi non c'è niente di male, cioè, ci lamentiamo spesso, no, per il calcio che è poco romantico, poi ci sono questi signori qua, ma lo stesso di Natale, ma che gli vogliamo dire? Ma grazie a Dio che esistono, io sono onorato di averli conosciuti, intervistati, incontrati, commentati, capito? Di avergli stretto la mano, dai, gente... No, certo, sono certamente leggende, anche se la metto tra molte virgolette, del nostro calcio, però c'è da domandarsi perché alla soglia di un mondiale puntualmente rispuntino i nomi, ma questo non è solo in questo caso, è una regola vuol generale. Dire che non siamo un paese per giovani? Bravo, in assoluto. Volevo arrivare. Però sai, il calcio da questo punto di vista è molto meglio della vita reale, perché io penso che nella società italiana spesso sappiamo che i giovani fanno fatica a imporsi e sotto ai 50 anni sembri sempre un pischello, come diciamo noi, sì, a Roma, no? E non riesci a importi. Nel calcio invece la regola tratta il campo, cioè se sei più bravo sei più bravo, quindi da questo punto di vista è un luogo dove c'è la meritocrazia. Allora, abbiamo domande anche per voi, perché al questionario anonimo, naturalmente, rigorosamente anonimo, dovete partecipare anche voi, 80024 0024. Prima di fare un'ultima domanda anonima a Pierluigi Pardo, do tre notizie così in ordine sparso. Marotta sulle leggi relative alla discriminazione razziale e territoriale, eccetera. Marotta dice: la norma sulla discriminazione territoriale è stata interpretata da noi dirigenti forse con troppa leggerezza. Quando il 5 agosto sono state inasprite le sanzioni relative a queste cose, abbiamo sottovalutato il fenomeno. Oggi ci troviamo con uno stadio chiuso e, come diceva l'antropologo Smith, il calcio giocato senza pubblico è pari allo zero. Ma ha ragione, ma l'ho detto anch'io l'altro ieri. Giusto. Non mi chiamo Smith, però è abbastanza evidente. No, non sei neanche un antropologo. No, non sono antropologo. Altra notizia, stiramento al retto femorale della gamba destra. Questo risultato degli esami ai quali è stato sottoposto Diego Milito, attaccante dell'Inter. Non ci voleva questa cosa, perché era appena tornato, grandissimo entusiasmo, e quindi vabbè. Altra notizia, Toir, basta, questa cosa qui mi ha veramente estenuato, la saga dell'Indo-Inter. Allora, Toir oggi, dichiarazione delle 13:30, gli avvocati sono al lavoro, aspettiamo dei risultati nei prossimi giorni, penso che la famiglia Moratti abbia fatto un grande lavoro. Vedremo se rimarrà presidente, è una cosa che credo discuterà il prossimo consiglio di amministrazione. C'era un tweet ieri divertente, non mi ricordo di chi, quindi chiedo scusa al proprietario del copyright, che diceva che ricorreva il primo anniversario della prima giornata decisiva della trattativa tra Toir e Moratti. Sì, ormai va avanti da una vita. C'è un messaggio che dice: dillo, poi c'è il traffico. Sì, che confondere con le rosi terremotati, robe sul Vesuvio, eccetera, con prosciutto di Parma e tortellini bolognesi o Milano in fiamme non è la stessa cosa, la differenza fra razzismo e sfottò. Qui è Salvatore che ce lo scrive da Milano. Ovviamente il dibattito è sempre aperto, no? Su qual è il confine fra ciò che è ironia, fra ciò che è normale dialettica da campo e ciò che invece diventa discriminatorio. Grande Paolo, sarei il giornalista più sopravvalutato della radio, almeno un primato ce l'ho, secondo il nostro ascoltatore. 349-238-6666, ma vogliamo io e Pierluigi Pardo sentire le vostre voci. 800-24-0024. Tutti convocati. No, è che questo, che la norma UEFA, purtroppo nella vita bisogna anche avere la capacità di capire che le norme vanno attuate in relazione anche all'habitat in cui devono essere attuate. Allora bisogna che si attaglino le norme che siano compatibili agli usi e costumi dell'ambiente, no? Quindi allora voglio dire, siamo una delle federazioni più importanti della UEFA. Abbiamo un rappresentante con il ruolo di vicepresidente, che è nella persona di Giancarlo Abete. Bisogna che Platini capisca queste situazioni, perché non è che è diventato il Vangelo Platini, no. Perché Platini è il Vangelo, esiste solo il nostro Signore Gesù Cristo. Bisogna attagliarlo alle condizioni specifiche. Questo, come sapete, è lo Tito che è intervenuto l'altro giorno nel comizio fantastico elettorale. Fantastico lo Tito, l'anno scorso gli ho fatto fare le rubriche in latino. Sì, me lo ricordo. Roba. Le facevo sentire anch'io, settimane. Lo so, perché tu sentivi me, io sentivo te, era un cortocircuito. C'è un Forza Bologna, Pioli tutta la vita, firmato Gianni, ovviamente Gianni Morandi, non ci sono dubbi. E, insomma, lo Tito la tocca piano su questa questione, ma ormai... Ha ragione, No, su questo ha ragione. Ormai non è più cronaca, ma non ti dico storia, ma commento. Ha parlato invece, è un po' più fresca la dichiarazione di Michel Platini, poi c'è Roberto da Udine. Dopo Michel Platini, Roberto da Udine. 800-24-0024, via con Platini. Noi a livello dell'UEFA combattiamo la discriminazione. Dopo quello che vuole fare ognuna associazione nazionale è il suo problema. Noi la discriminazione prendiamo caso per caso e vanno alla disciplinare. E la disciplinare disegna quello che vuole. E disegni quello che sono i motivi e le punizioni. Non è scritto, perché ne ho parlato con Bertoli, non è scritto discriminazione territoriale, quello non esiste da noi. Esiste discriminazione. Dopo la disciplinare decide quello che vuol fare. mi sembra chiarissimo, no, come va a finire questa storia. Cioè? Che comunque si troverà, l'ha detto Platini, cioè se l'ostacolo per cambiare la norma era l'UEFA e Platini dice una cosa del genere, è chiaro che a questo punto l'Italia dovrà scrivere altre regole. Però attenzione, io ho molto paura del tarallucci e vino, no? Cioè sono contrarissimo a queste regole perché odio gli stadi chiusi, così, eh. Odio le curve chiuse, odio gli stadi chiusi, però ecco, il rischio a questo punto torna a essere il rischio inverso. Che dopo un mese di panico, depressione, rischio di 0-3, stadio chiuso che poi alla fine vedrete che secondo me non si chiuderà. Anche secondo me. Alla fine poi il problema rimane. Invece noi dobbiamo cogliere l'opportunità per risolvere il problema, o quantomeno per cercare di mettere i paletti fra ciò che si può dire e ciò che non si può dire, e però tenere gli stadi pieni, dare al calore, al colore delle curve in termini civili la possibilità di esprimersi. Sì, infatti il pronostico è abbastanza facile su questo ricorso. 1x2 si deciderà domani, lo ricordo, è 2, cioè il Milan vincerà il ricorso e sarà l'occasione o il pretesto, se volete, per rivedere questa normativa con una soluzione che invece io ho la sensazione sarà molto italiana. Roberto. Buongiorno a tutti, è un onore per me intervenire dopo Michel Platini, vi ringrazio per questo. Chiaramente sei tifoso del Toro, vero? Io sono tifoso dell'Udinese. Da Udine, va bene. Allora è un omaggio al calcio in quanto grande, Platini non si basa, sono d'accordo. Ho seguito con passione la puntata di ieri e volevo fare un appunto sullo Juventus Stadium, fare un appello al nostro portierone Buffon. Allora, sono d'accordo che lo Juventus Stadium è l'unica struttura in Italia che può ospitare un bel spettacolo di calcio, però chi frequenta questo stadio, dico molti anche, sono un po' maleducati e mi riferisco al rinvio dei portieri delle squadre avversarie, che sistematicamente a ogni rinvio, qualsiasi squadra sia, estera o italiana, gridano questa parola che tutti sappiamo perché l'abbiamo sentita, ma si vede che qualche volta facciamo finta di non sentire. Sì, però quello, insomma, anche qui è molto difficile, è abbastanza antipatico anche distinguere tra un bue e l'altro, no? Però è evidente che questo ha un altro senso. Tra l'altro mi sembra che l'abbiamo mutuata dagli spagnoli, no? Questo ululato sul rinvio del portiere. Roberto, io onestamente ho sentito cose peggiori negli stadi, cioè ci sono cose che mi danno più fastidio, non so tu Pier. Sì, no, ma ci sono cose che danno certo. Fastidio. Qua dobbiamo far pace con noi stessi, nel senso che poi adesso vedo anche i messaggi, c'è un ascoltatore per esempio che scrive: perché una bomba carta a Verona è terrore, a Napoli è folcloristico. Io non credo, credo che la bomba carta sia bomba carta ovunque e credo che insomma dovremmo volerci tutti un po' più bene, rispettarci, cioè capire che poi va in onda durante la partita una messa in scena che rende il tifoso pazzo, folle, ma poi alla fine i tifosi da qualunque parte d'Italia e del mondo sono uguali, nel senso che vivono la stessa passione, sono quelli che ci mettono i soldi, sono quelli che si fanno le trasferte, sono quelli che si beccano la pioggia, sono quelli che escono tre ore dopo la fine della partita dal settore ospiti, sono quelli che qualche volta avranno anche avuto paura, perché sappiamo che questo fa parte del kit del tifoso, purtroppo, aver avuto qualche volta paura nella vita. Poi alla fine uno nasce da una parte e uno dall'altra, insomma, e le bombe carta, lo dico a Marco, sono bombe carta ovunque, insomma, meno ce ne sono meglio stiamo, penso, no? No, ecco. certamente, però continuo a ritenermi contro il tifo organizzato e lo dichiaro pubblicamente, sono per il tifo disorganizzato, non anarchico ma disorganizzato, nel senso che l'organizzazione delle curve a me è qualcosa che non piace, anche perché in Italia poi diventa una cosa molto perversa, e sono contrario comunque, lo sarò sempre, a questo eccesso di protagonismo da parte dei tifosi che vogliono essere a tutti i costi parte del reality show calcistico, e questo esiste solo in Italia. Ma i tifosi lo sono parte del reality show, posso citare di Smith. Ho letto le opere di Smith, perché il calcio senza tifosi non è niente, però così come c'è il tifoso organizzato c'è anche il tifoso disorganizzato, tutti sono altrettanto importanti. Nel momento nel quale il diritto del tifoso disorganizzato, del padre di famiglia, del bambino di 5 anni che vuole andare allo stadio e non avere paura perché ci vuole tornare per tutta la vita e portarci figli e iniziarli a questo che è uno dei piaceri della vita, se sei soprattutto maschio, ma ormai vale tantissimo anche per le donne, no? Va parte proprio della nostra cultura, della nostra società. Beh, insomma, quindi i diritti devono valere. È il solito discorso della libertà di uno che finisce se quell'altro ti prevarica. No? Questo sicuro. Ecco. Questo sicuro, chissà perché le donne invece non ci telefonano mai. 800 24 00 24, le convochiamo forse sempre. Colpa dei lineamenti, credo. Peraltro, credo anch'io. Insomma, comunque, due Ivan, sex symbol, si dica. Ivan da Brescia invece ci chiama. Ivan, grazie, Ivan. Facci sognare. Pronto? Pronto? Sì. Pronto, ciao a tutti. Complimenti per la trasmissione e la collaborazione riuscitissima. Grazie, Ivan. Ma ti aspettiamo qui, perché più siamo meglio siamo. Sì. Sì, volevo parlare un po' della terza età degli giocatori di calcio. Sì. Io sono un ex giocatore, sei professionista, ho 43 anni. Però voglio dire che ci sono i due estremi, come la nazionale italiana. Un po' Balotelli, i giovani, ribelle, fuori classe, campione quasi fuori classe. E il Totti, no? Professionista e fuori classe, secondo me. Perché al mondo attualmente a quell'età non c'è ancora nessuno. Sì. Ora come ora. E le dichiarazioni un po' di Prandelli, che finalmente ha preso posizione con Balotelli, forse secondo me è l'ultima chance che gli potrà dare, perché andar via dal ritiro, da quanto ho letto, poi se è vero voi mi date conferma, andar via dal ritiro per un sentimento muscolare o se c'è dietro altro, questo non lo so. E poi un'altra cosa, per fare i complimenti a Ventura, io sono un tifoso granata, e che continui così intorno, che prima o poi i suoi punti che gli hanno tolto o sfortuna gli verranno dati. Sì. Grazie a tutti. A te, Ivan, sui complimenti a Ventura non possiamo che accodarci. Su Totti mi sembra che Prandelli abbia detto una cosa estremamente populista, che è una cosa che tutti volevano sentirsi dire, anche perché a ottobre vale tutto. Secondo me invece Prandelli su Totti ha detto una cosa dalla quale difficilmente potrà tornare indietro. Sì. E oggi nelle dichiarazioni di Buffon su Totti, dove praticamente, lo dico per chi non lo sapesse, insomma, Buffon fa capire che per Totti c'è spazio, essendo Buffon uno dei leader dello spogliatoio della squadra. Io penso che sia un ulteriore endorsement, ti è piaciuto? Endorsement, sì, molto. Nei confronti del capitano della Roma. Ovviamente bisognerà capire come sta a maggio, perché è chiaro, se a maggio sta così è un conto, se a maggio cala, e ci può stare che possa calare non essendo bionico, allora cambiano le cose. Sì, di Balotelli invece non parlo perché sono in scadenza di contratto. Bravo, bravo, ecco. Io sono per il tifo pro e non per il tifo contro, ci scrive Paolo da Riccione. Una frase semplice, ma insomma basterebbe partire da qua per migliorare. Prima... anche se un po' di contro ci sta sempre nella vita, sì, la rivalità. Pensate al Palio di Siena, no? Esatto, cioè, ecco, Pier, voglio dire, viviamo di questo, viviamo di Campanini da tutta una vita. Per cui poi abbiamo avuto mille dominazioni, austriaci, spagnoli, l'Italia. Carboidrati, è un paese così, mi dominano continuamente. Sì, l'Italia è un paese così. Ci dobbiamo fermare. Arcangelo, provincia di Napoli, dopo la dopo, borsa? Dopo. Va bene. Aspettaci, borsa. Cosa? No, dico Arcangelo, aspettaci. Certo, anzi, senti la borsa che oggi va bene, credo. Borsa! La frase è? Pecunia non olet. Che significa? Che il denaro non manda profumo. In questo caso non manda, perché nacque da un problema all'epoca dell'imperatore Vespasiano, che voleva mettere una tassa sui bagni, cosiddetti bagni dell'epoca, cosiddetti Vespasiani. E quindi dice, tutti recriminavano il fatto che lui facesse tassare chi andasse al bagno. E lui disse, no, peculia non olet, quindi non manda odore il denaro. Quindi. Tutti convocati. Allora, io riconvoco tutti, 800240024, donne comprese. Sì, anche perché il successo di Genta è straordinario. No, perché volevo salutare Monica Cerutti, che ha mandato una mail in Borsa Time. Cerutti Gino, no. No, Monica Cerutti, che ha scritto, le donne non telefonano, ma vi ascoltano, quindi occhio, capito Pardo? Ah, sì, no, ma assolutamente. Stai attento a quello che dici. No, ma fa già piacere che ci ascoltino. E fermo con le mani. Con le mani, sto qua, ma stiamo scherzando. Arcangelo, provincia di Napoli, buongiorno. Buongiorno. Senta, volevo chiamare riguardo ai cori razzisti, sì, o sì, discriminatori che si voglia. Per quanto riguarda lei tende un po' a sminuire queste cose, no? Riguardo ai cori sui napoletani. Io non vorrei fare la parte del napoletano è vittima, eccetera, eccetera, perché non mi piace fare questa parte. Però, cioè, è una cosa proprio evidente, che non è il problema che se il Napoli va a giocare a Milano ci siano i cori contro il Napoli. Cioè, se il Milan gioca contro... il Canicattì, oppure se l'Inter gioca contro il Sassuolo, se la Juve gioca contro il Parma, comunque loro continuano a fare i cori contro i napoletani, quindi dice che c'è un obiettivo da parte di questi tifosi qua, soprattutto del nord. Cioè, quando tu ti presenti a Milano e si presentano, e tu hai il problema della spazzatura, e si presentano con secondo lei l'obiettivo qual è? Io non sminuisco niente, ma secondo lei l'obiettivo qual è? Secondo me l'obiettivo è che lo sappiamo che a nord è radicata una certa mentalità, soprattutto anche, cioè c'è un partito, no, che è un pochino anti, come devo dire, anti la Lega, anti meridionalista, sì, cosa non saranno, no, di queste persone. Quindi, cioè, se non vogliamo dire che è un problema, non lo so, cioè, perché no, non dico il signor Pardo, perché mi sembra che lui è un po' più morbido su questa cosa. Sì, però lei sembra un pochino come se volesse dire che poi vabbè non fa niente. No, io dico il contrario. Sono dei cori, vabbè, cioè, io dico che si dovrebbe, io dico che bisogna avere, sinceramente bisogna avere dei problemi per insultare Napoli, come bisogna avere dei problemi per insultare Verona, come bisogna avere dei problemi, cioè io penso che con tutti i problemi, i casini, le sfighe che ci sono, le raccontiamo qui a Radio 24, le raccontano persone che si occupano di cose più importanti delle nostre, però viviamo in un paese che è pazzesco. In un paese che è pazzesco, e onestamente, insomma, no, c'è la rivalità Verona-Napoli, cioè Verona e Napoli sono due città meravigliose, di cosa dobbiamo discutere? Quindi, però, io vorrei chiedere una cosa: al di là della della Lega, a cui faceva sottinteso riferimento il nostro ascoltatore Pierluigi, sappiamo perfettamente come questi cori idioti esistono da prima dell'esistenza della Lega, perché sono cose che risalgono a io negli anni '80 già li sentivo, e anche tu. Quindi non credo sia un problema. Ma vedi, per esempio, Raffaele Auriemma, che il nostro ascoltatore sicuramente conoscerà, che è telecronista tifoso di Mediaset del Napoli, un paio di circostanze ha espresso un punto di vista anche scomodo a Napoli, no? Lui ha detto che lui è vaccinato, cioè che questo tipo di cori lui li sente da 30 anni e ormai ci ha fatto il callo e non gli danno fastidio perché non gli dà nessuna importanza. Immagino che altre persone invece avranno una sensibilità diversa e saranno toccate da questo genere di cose. Qui Io non so che dirvi, io ho la fortuna di viaggiare per l'Italia da una parte all'altra, mi sembra che ci sia tanta bellezza ovunque, al nord, al sud, e questi discorsi mi fanno veramente, cioè io non li capisco, io posso stare qua mezz'ora a discutere questa roba, io non lo capisco, non capisco perché si debba insultare Verona, perché si debba insultare Napoli, perché si debba insultare Bergamo, perché si debba insultare Ponza poi proprio assoluto. Non la si può insultare a prescindere, no? Come c'è no? Una voglia di mare pazzesca. Sì, ma De Laurentiis, te lo ricordi, a Zagara di Higuain non l'ha ancora dimenticata. Quelle Capri però, Sì, ma anche Ponza vedrà che va bene lo stesso, fa causa anche a Ponza. Un giorno lo chiamiamo. Meglio e... Ponza o meglio Capri? Boh, meglio Ponza, senti, allora, sai che oggi è il giorno dei quizzoni, no? Sì. Allora, chi è l'allenatore cult del momento? O chi sono gli allenatori cult? Ce ne sono un paio. Uno è Garcia. Vogliamo chiamarlo? Proviamo a chiamare Garcia. Niente. Vabbè, è occupato. Sta sempre con Bompard, perché sappiamo che con i telefonini Garcia sta facendo cose straordinarie. L'altro? Garcia è il lotito del... No, lotito a 7 telefonini. Garcia invece è il più tecnologico degli allenatori. L'altro è Andrea Mandorlini. Benvenuto, come va? Buongiorno, grazie, bene, benissimo direi, dai. Mister, facciamo questa campagna, viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer, l'Italia del caffè, come canta De Gregori, che è bellissima da una parte e dall'altra, lo diciamo forte e chiaro, tanto per non farcelo dire appresso. Viva l'Italia, assolutamente. Tutta, giusto? Tutta. Giustissimo. Scusate, sì. Ma sento male che sono in macchina, che sto andando allenamento, quindi magari se non mi sentite bene non è colpa mia, dai, è la macchina, no, ma invece, noi per il momento sentiamo bene. Benissimo, la macchina del Verona funziona alla grande, come mai? Che insomma, diciamo che io onestamente un po' me l'aspettavo, l'avevo anche detto e non voglio fare il fenomeno, però mi sembra ci sia grande intelaiatura, però ci spieghi che sta succedendo, cose fantastiche. Ma forse non ce l'aspettavamo neanche noi, ci siamo ributtati in questo campionato dopo tantissimi anni, sicuramente è una piazza che vive di entusiasmi e dopo tanto tempo sicuramente diciamo che nel motore molto dipende dall'entusiasmo, della piazza, dell'ambiente e soprattutto di tanti giocatori che fanno la Serie A per la prima volta, e abbiamo fatto un po' un mix di questi giocatori con qualcuno insomma che invece di esperienze ne ha tantissime. Siamo partiti bene, avevamo un calendario molto molto difficile, quindi fin dall'inizio, fin dalla preparazione, vedevo che c'era una grande concentrazione, insomma una preparazione a quello che era per molti, insomma il traguardo, e quindi niente, è partita così, siamo partiti bene, siamo contenti, si dice sempre che il difficile viene adesso, non lo so, però adesso ci godiamo questo momento, perché non è mai facile. Anche perché le avete prese soltanto dalla Roma in maniera evidente, nel secondo tempo, no? Dai, primo tempo era stata la partita più brava. Esatto, poi le partite vanno prese nella singola, insomma, io credo che per un'ora abbiamo fatto bene, anche se non abbiamo fatto bene quello che noi riusciamo a fare, cioè ripartire e riuscire a mettere in difficoltà, ma al primo tempo abbiamo subito poco e niente. Quando sembrava la partita un po' così, dopo un'ora, loro hanno trovato questo autogol e poi subito dopo un grandissimo gol di Pjanic, che lì penso che abbia chiuso un po' a livello proprio mentale la partita. E poi abbiamo perso con la Juventus, che comunque ci può stare, ma anche lì per non essere andato in vantaggio, insomma. Insomma, senza allargarci troppo, siamo contenti, punto e basta. Abbiamo perso con le squadre che in questo momento stanno dominando il campionato, quindi ci può stare. Certo, Mandorini, dopo il derby con il Chievo preparatevi allo stadio chiuso, eh. Discriminazione territoriale, cori con un quartiere contro l'altro e lo stadio verrà chiuso. Ma non speriamo di no, insomma, noi siamo un po' nell'occhio del ciclone per tante altre cose. E io uno di questi, insomma, negli anni, però credo che non succederà, ed è una, al di là della tifoseria, ha dato segnali di grande maturità e così sarà. Senta, ammetto che hanno domande difficili. Balotelli campione o uomo copertina o velina? No, Balotelli è o via di mezzo anche, no? Io credo che campione, comunque lo devo ancora dimostrare, è un giocatore che ha delle qualità importantissime, però i campioni secondo me, io ho avuto la fortuna anche di giocare con grandi campioni, ma soprattutto i campioni lo sono dal punto di vista tecnico, come uomini, come personalità e come quant'altro, quindi i campioni per me erano i Passarella, i Rummenigge e tanti altri. Credo che lui abbia delle qualità importantissime per diventarlo. Adesso secondo me ci sono soltanto tantissime qualità. Chi vince il campionato? Sempre queste domande, ma quello che ho detto, io credo che la Juventus sia ancora davanti a tutti, ma soprattutto per la consapevolezza di essere forte, perché te la dà soprattutto le vittorie che hanno avuto in questi anni. Credo che l'altra squadra quest'anno la maggiore antagonista sia la Roma, perché comunque vincere 7 partite su 7 per solo sono dei numeri che non sono così soltanto del momento, ma credo che se li porterà avanti per un tempo, e il Napoli, quindi credo che queste 3 squadre, non ho detto la mia Inter, perché credo che insomma nel cambiamento qualcosa ha pagato, i punti di distacco sono tanti e quindi farà fatica a lottare per i primi posti con queste 3 squadre. Assolutamente. C'è qualcosa, mister, che vuole dire su tutto quello che è successo in questi giorni? Insomma, io guarda. Anche dopo la partita, anche lì l'intervista a Ilaria di Sesamico, quindi ma il minuto di silenzio, guarda, io ero lì in campo, nel minuto di silenzio i nostri tifosi, la nostra cura ha cantato una canzone, tra virgolette, di chiesa, no? Io credo risorgerò col mio cuore incontrò il Salvatore. Ed è stata anche lì, ma non le sembra il caso, ma io, cioè, si vede sempre il male in tutte le cose, e soprattutto in quel frangente lì io non ho visto una cosa brutta, negativa, anzi in quel momento, in quel minuto di raccoglimento mi sono sentito, magari come tante volte succede quando una preghiera viene cantata in chiesa, di essere vicino a una tragedia così grande, però si vede sempre il male. Io credo che invece non è stato quello. Poi per tutto quello che si è detto e scritto, credo che molte ragioni le abbia spiegate ampiamente in una maniera migliore Galliani, quindi soltanto in Italia succedono certe cose, come in tante altre situazioni speriamo di adeguarci anche noi. Senta, io altra domanda difficile, canterebbe di nuovo quella famosa canzone degli Schiantos? Ma guarda, io non l'ho cantata, bisognerebbe parlare di tante cose, era un ritornello che cantavano appunto dei ragazzi quando tornavamo da una, tra virgolette, da una partita vinta, da una partita in Serie B, abbiamo subito di tutto, le vere offese, le vere menacce le abbiamo subite proprio personalmente lì, prima, durante, dopo. Quella era veramente soltanto ironia e purtroppo, come spesso succede, viene sempre strumentalizzato tutto, il perché per come lo lascio voi a dire. Io, ripeto, non la canterò più, però in quel momento lì era proprio una ironia per rispondere alla vera violenza che io personalmente, la squadra e quant'altro abbiamo subito in quel frangente. Grazie, mister. Grazie, mister. Viva grazie l'Italia, viva grazie, l'Italia. Viva l'Italia sempre. Grazie. Grazie, arrivederci. Grazie ad Andrea Mandorlini. Strade, poi torniamo, 800 24 00 24, numero verde. Ancora Alfredson, pallone sul secondo palo, Mora spalla a torre, poi calciatore, segna il gol dell'1-0, il Verona in Iturbe punta Sørensen, Iturbe diventa Iturbo, Iturbe! Ancora Juan Manuel Iturbe. Parte il suo cross per Toni, la schiaccia Toni, 2-1, la doppietta di Luca Toni, un esordio fantastico alla prima di campionato con la maglia del Verona. Tutti convocati. Convocatissimi tutti. Anche le donne, eh? Andiamo via come il pane, gente. Stanno arrivando un sacco di messaggi. Ma telefonate è zero, vabbè, ma la radio fa miracoli, eh? Perché non si vede, uno può pensare. Allora, vi descrivo Genta: è alto 1,92 m, pesa 75 kg, ha degli addominali scolpiti, occhi chiari. Ammazza. Che altro vuoi? Che ti faccio? Ha una barba lievemente incolta, quella che sentite rientra delle volte nel microfono, insomma. L'avrete visto anche in alcuni films. Senti, in alcuni movies. Loreno, salutiamo Valeria che ci scrive, sì. Loreno, provincia di Verona, certo, che è meglio. Sentiamo Loreno. Ciao Lori. Salve, niente. Io intanto sono felice di parlare dopo Mandorlini perché insomma per noi qua è diventato quasi un mito. Dopodiché volevo aggiungere che stiamo godendo come dei pazzi qui a Verona. Però Loreno, mi corregga se sbaglio, è vero che l'anno scorso volevano mandarlo via dopo alcune partite? Verso Natale, Mandorlini è stato seriamente a rischio. Ma diciamo che forse la voglia di riempire i giornali, però... No, non è così, non è così. Sì, ovviamente quando, sai, le società volevano i risultati, quando si ha un momento un po' così di calo, si mette in discussione tutto e tutti, e per prima volta può essere anche l'allenatore. Questo è ovvio. Però ti ripeto, qui a Verona io da tifoso, poi sai, sono tornato un po' a riavvicinarmi al calcio perché i bambini ci giocano, eccetera, stiamo godendo veramente come dei pazzi, perché con due squadre in Serie A, ma venissero anche tre, voglio dire, ci stiamo proprio divertendo. Poi a novembre ci sarà il derby. Vedo comunque il Chievo che, nonostante non sia un buon periodo, secondo me ha le doti per poter, diciamo così, rinascere, perché ha tutta la qualità. Senta Loreno, saluti Michele da Napoli, che è il prossimo ascoltatore. Va bene Michele, ti saluto e in bocca al lupo per voi. In bocca al lupo. Aspetta, non andare via Loreno. Michele? Michele? Sì, pronto, eccomi. Vuoi salutare Loreno? È un momento Kofi Annan, eh? Facciamo... Certo che lo voglio salutare. Ecco. E sono anche solidale con il Verona, perché in tutti i stati che ultimamente... con il loro pullman stanno prendendo pietrate sui pullman, e questa cosa non va bene. Lì un po' si paga, forse la voglia di essere tornati in A, magari sai un po', sì, si è stati un po' troppo irruenti forse in certe occasioni, allora, però cosa vuoi mai, è così. E poi comunque noi sappiamo anche dimenticare, nel senso non siamo particolarmente accesi, sì, lo siamo, però sappiamo che là è un altro campionato, insomma. Ma la violenza non va bene. No, non va mai bene in nessun caso. Sono con te, infatti. Neanche nelle parole, ragazzi. No, ma infatti non. No, infatti, io non so forse ricordare i due striscioni che corsero qualche decina d'anni fa tra Verona e Napoli, che erano pesanti, però francamente erano assolutamente divertenti, perché poi... Ma quella è goliardia, cioè quella, esatto, è goliardia, no? Però sai, cioè, no, non vorrei dire qua... mettere quello striscione che è pesante, però è goliardico. Sì, ma mentre altri cori non è, quella non è goliardia. Cioè, se tu ci fai caso, domenica prossima si sono coalizzati tutti gli stati d'Italia grazie a dei miei concittadini che si sono brillantemente inventati Napoli con l'era in curva loro per fare chissà. Io non ho capito, non lo voglio capire, perché in curva non ci vado, perché loro hanno una mentalità particolare. Io voglio andare in curva e vedere la partita senza gridare, invece se vado in curva devo gridare, devo certo stare alle loro cose. Allora loro si brillantemente si sono inventati sta cosa per protestare non so che cosa. Tutti il resto degli stati d'Italia domenica si sono coalizzati per fare cori, cioè oramai il coro razzista che si farà, razzista fra virgolette, loro lo chiamano in un'altra maniera, ma il coro razzista che Michele, si farà domenica. Michele, io sì, faccio solo moderatore perché voglio sentirvi parlare. Lasciamo una replica a Loreno. Sì, prego. No, ma allora quando ci sono le coalizioni, poi sai, vuol dire che c'è già un programma sotto, c'è qualcosa. No, infatti. Che, non, cioè io dico vado allo stadio per 90 minuti, posso anche scapparmi magari la parola pesante nei confronti dell'avversario, però ma, che non ma sicuramente i limiti, nel senso hai perfettamente ragione, noi possiamo stare nel campionato di terza categoria, voglio dire, Poi però alla fischio finale basta, cioè non ha senso. No, ma infatti noi possiamo stare pure a fianco a vederci la partita e a gridare l'uno contro l'altro a un metro di distanza, però poi usciamo e è finita là. Vabbè, io ho l'occasione, ho un bimbo che gioca nei giovanissimi qua nella nostra zona. Quando vado, che con i genitori di altre, dell'altra squadra, ma ci si trova fianco a fianco, e mi piace tifare a favore, come sento le opinioni, cioè, capisci, il calcio è questo, il bello del calcio è questa cosa, sì, qua. Dovrebbe poi, essere questa, dovrebbe essere così. Poi io ho avuto modo di, perché pure mio figlio ha giocato a calcio, io ho avuto modo di andare sui campi dove giocavano i ragazzini e ti posso assicurare che lo schifo che io ho visto sui campi dove giocano i ragazzini, fra i genitori, non li ho visto nemmeno nella peggiore curva della Serie A. Ragazzi siete fantastici, adesso vi siete gemellati, però è stato, tra l'altro è stato casuale, perché non è che l'abbiamo, voglio dirlo, perché può sembrare che l'abbiamo organizzato apposta, invece qua io ho l'elenco delle linee, ho linea 2 Loreno da provincia di Verona, linea 3 Michele da Napoli, arrivano messaggi che vanno da che noia questi due qui, perché c'è pure chi si annoia, a Nobel per la pace a Pardo e Genta, mi sembrano due cose un po' esagerate. Vabbè, io volevo lanciare solo una proposta, l'unica proposta che mi sembra che dovrebbe metterebbe d'accordo tutta l'Italia, tutti gli sfottò che vogliono sullo stadio, e il coro che fa chiudere gli stadi è uno solo, vietate quello e non si chiuderanno più gli stadi in Italia, ve l'assicuro. No, ma il coro che farà chiudere gli stadi in Italia è sempre lo stesso, Napoli Colera. Ma comunque insomma adesso per tutti Napoli col fuoco, e vediamo questi due cori, non si chiuderanno più gli stadi. Ragazzi, grazie. Grazie. Vi aspetto, vi do un appuntamento anch'io. Io e Pardo, vi diamo appuntamento a Napoli. Posso ricordare che la moglie di Bossi è siciliana? Mi correggi se sbaglio. No, ma gli italiani si incontrano. Quando si incontrano, si conoscono da nord a sud. Si incontrano, si parlano, mica si sputano in faccia, no? Questo è un esempio. Ma questo tra persone normali. Normali. Convochiamo i due ascoltatori. Sì, e chi convochiamo? No, i due ascoltatori, quando c'è Verona-Napoli, Napoli-Verona, li vogliamo qui. Ma assolutamente, ma non vorrei neanche cadere in un buonismo, perché è una roba proprio, è una roba da, bisogna vuol dire che non sei cretino, semplicemente. No, che non sei cretino. Cioè, il romanista ci avrà un amico laziale, un parente laziale, non è che può pensare. Allora, io mi devo ritirare, tu devi scappare e salvarti. 800 24 00 24, numero verde, ma invece non scappiamo, stiamo qui e vi aspettiamo dopo il GR. Tutti convocati. Tutti convocati. Ecco, il gemellaggio divide, no? Sì, radiofonico. Sì. Ah, a parte che è stato casuale, non è che è andato linea 2, linea 3. Happening totale. L'unica cosa che non accetto è il buonista, perché non. Ma il buonista no. Non lo sono. Infatti, c'è un ascoltatore che dice: l'idea di mettere a confronto due tifosi sarà bella, sarebbe da farlo tutti lunedì dopo una partita di cartello per sentire delle belle, ma magari sì, nel senso che poi non è che. No? Cioè, lo stadio non deve diventare il teatro. Io c'ho questa paura, capito? Ma che stai tranquillo, che in Italia non diventerà. Io ho paura di così. In Italia non diventerà mai così. Se la gente si parla, non è male, no? No, non è male, no. In Italia non sarà mai un teatro, non sarà mai una chiesa. Bene. Io spero che in Italia prima o poi ci saranno anche degli stadi, perché quelli che ci sono adesso sono dei pollai. Sì, tra l'altro tutti i tifosi sarebbero anche titolari di diritti, visto che spendono soldi. Questo vale a Napoli, a Verona, a Milano, a Brescia. Vale anche in Gazzetta, Luca Bianchi. Fammi risentire la sigla. Quella dell'inizio. Scusa. Aspetta. Non ce l'ha più, rischia tutto. Vedi che non c'era, non c'era. Luca Bianchin oggi è il personaggio del giorno, ha diviso l'Italia calcistica con questo sondaggio anonimo tra i giocatori della Serie A. Ciao Luca. Ciao, buongiorno a tutti. C'è anche chi si è arrabbiato come Schelotto su Twitter, mi risulta. Sì, non ho ancora guardato, devo dirti, è arrivata qualche voce, ma l'importante è che non si arrabbi Balotelli, è peggio. Perché è grosso? Più grosso. Povero Schelotto, cioè, non lo si può sottovalutare così dal punto di vista dell'intimidazione. Se Schelotto Poi io mi domando, Schelotto, vabbè, la domanda, qual è il giocatore più sopravvalutato della Serie A? Domanda anonima, posta 50 giocatori, Schelotto 8%, Icardi 8%, Balotelli 8%. Vabbè, l'8% di 50 è? Poco. È 4. È poco. Ma poi perché Icardi? Icardi perché? No, secondo me sono contingenze, nel senso che il sondaggio è stato fatto, è cominciato ovviamente, immaginate, non si può fare in una settimana, è cominciato a maggio, soprattutto a giugno, ed è finito adesso. infatti molti dati, come vedete nelle domande, sono riferiti alla stagione 2012-2013. Schelotto secondo me pagava il fatto di essere stato acquistato dall'Inter, per cui la reazione naturale è: un giocatore così non è da Inter, e allo stesso modo Icardi, mezza stagione di qualità alla Sampdoria, passare all'Inter secondo me è un po' invidia, diciamo, è un po' dire è il rapporto con la squadra in cui giocano. Senti, è facile intervistare i giocatori, chiaramente qui c'era il sono domande impegnative, no? Perché si parla di razzismo, di sesso, di depressione, di temi non semplicissimi, ma c'era l'anonimato, no? Che poteva proteggerli. È stato facile, è stato difficile, sì, no, devo dirti è un mondo omertoso, che succede? Dici un po'. Beh, questo lo possono valutare tutti. Devo dire in gran parte devo ringraziare gli uffici stampa della società di Serie A, che contrariamente a quanto si dice, sai, il cliché dell'ufficio stampa che rima contro il giornalista è in alcuni casi corretto e comunque molto diffuso. In questo caso mi hanno aiutato, infatti secondo me non ha tanto senso parlare di come hanno reagito loro, perché in gran parte con loro non ho parlato direttamente, ma è soprattutto la cosa interessante secondo me è capire quanti hanno risposto. Non so voi cosa ne pensate, se secondo me ci sono due reazioni opposte. Una è: per la prima volta 50 calciatori di Serie A accettano di parlare di temi delicati, anche se con la forma dell'anonimato, che vi assicuro era l'unica, certo, con la quale avremmo potuto fare un lavoro del genere. E poi ci domandiamo anche perché con l'anonimato ci sono alcune domande a cui non rispondono, nemmeno anonimi. Vabbè, ma il partito del non so non risponde, che io stimo pochissimo. Pochissimo. Infatti questa è la seconda parte della mia considerazione. Alcuni possono notare soprattutto il fatto che anche con l'anonimato abbiano risposto soltanto in 50, e che anche con l'anonimato alcune squadre non abbiano accettato, e che anche con l'anonimato alcuni abbiano selezionato le risposte a cui prestarsi. Tipo il giocatore più sopravvalutato, il 26%, cioè 13 su 50 dicono non saprei, non risponde. Beh, questo fa abbastanza. Esatto, ma anche. Senti, anche l'idea è nata da 442, no? Il mensile inglese 442, sì. Yeah. Lovely. Oh, tu lo dici meglio, sì. No, ma faccio finta, è tutta finzione scenica. Però, insomma, ma questi calciatori dovrebbero parlare di più? Oppure è impensabile questo tipo di situazione? Devo dirti che a istinto ti dico che dovrebbero parlare di più, anche se evidentemente c'è qualcosa che non capisco io. Ma c'è qualcuno che aveva voglia? C'è qualcuno che aveva voglia di parlare? Cioè... No, devo dirti che abbiamo anche provato a trovare l'eccezione, a trovare qualcuno che parlasse in prima persona, e in parte ci stiamo ancora provando e non ce l'ho ancora fatta, quindi per ora ti direi di no. Secondo me interessanti soprattutto i quesiti: qual è l'allenatore da cui vorresti essere allenato? C'è una larghissima percentuale a favore di Conte, 32% addirittura; il difensore più duro, quasi un plebiscito, più duro del campionato, quasi un plebiscito per Chiellini, 44%. E sì, poi andiamo su domande più spinose. Pensi che se un calciatore dichiarasse la sua omosessualità sarebbe trattato diversamente dagli altri in spogliatoio? Mi sorprende che il 66% dicano di no. Qui devi valutare anche la sincerità, perché come è vero che uno dietro l'anonimato non risponde ad alcune domande, io metto in conto, vabbè, non so in che qualche bugia, non saprà nessuno che qualcuno abbia detto una cosa che realmente non penso, non lo so. Beh, c'è anche interessante il fatto che il 36% ha sentito un commento o un insulto razzista detto da un calciatore a un altro durante la partita di Serie A. Insomma. Sì, non avete detto quello che a me ha stupito di più. Ecco. 58% la depressione è un problema serio o lieve per i calciatori. È vero che se ne era parlato, è vero che chi segue il calcio estero sa di esempi come Manuel Petit, campione del mondo con la Francia, Henke, portiere di alcune squadre in Bundesliga, e altri giocatori. Sì, ma no, Luca, però io allargherei il discorso allo sport in generale, perché abbiamo esempi, nel ciclismo è fin troppo facile, però abbiamo esempi in molti sport. È vero, però io mi chiedo se nel mio ambiente di lavoro una domanda del genere si arriverebbe a una percentuale così alta. Io francamente non credo. Vabbè, ma la prestazione artistica, la prestazione sportiva ti tiene sempre in bilico fra depressione e esaltazione. Sì, io credo che sia così, come parlando con alcuni che hanno smesso da poco, insomma, il momento nel quale si lascia una carriera che ti ha reso ricco, famoso e popolare e si smette, è sempre un momento complicato, insomma, senza scomodare la canzone di Gregori. È arrivato Cruciani, è arrivato fra poco, vi ricordo, cioè fra poco, cioè, prima c'è voglio dire, c'è un varie cose tra un po'. Grazie Luca. Grazie. Grazie a voi. Ciao Luca Bianchin. Ci siamo riusciti a trasformare rapidamente il nostro programma all'influenza di Pardo. Monica o Irene? Monica o Irene, da dove partiamo? Monica 31 anni, Irene 41 anni, tutti convocati in love. Ma scrivono dei messaggi, Piantanida che è un sex symbol, scrive dei messaggi incomprensibili. Da dove partiamo? Monica. Linea 5, Monica. Irene linea 6. Monica, buongiorno. Pronto, salve, un saluto a tutti. Niente, ci avete convocate subito, sono partite le telefonate, i messaggi delle donne, quindi anche le donne. Grazie a Pardo, in prima sì. linea. No, non si parla d'altro nei bar italiani in questo momento, No, niente, io volevo dire una cosa in merito alle, insomma, ai bu, ai cori razzisti, agli insulti, agli sfottò, come le volete chiamare. L'ha detto prima, insomma, anche il tifoso napoletano. Michele. Sì, il tifoso napoletano ha detto sì, la prima cosa che dovrebbero eliminare sono i cori Napoli Colè, ma ormai sono anni e anni e anni, cioè quasi diventata una filastrocca. Sì. Ogni tifoseria che viene a Napoli è Napoli Colè, è premesso che io non sono tifoso napoletano, no, ma sono tifosa laziale. Questo è tristemente vero, questo è, sì, è una filastrocca, è assolutamente ormai vero. E io penso che più se ne parla e più si dà importanza a queste cose, perché poi magari il tifoso milanista, juventino viene a Capri e magari l'inverno prima ha detto lavali col fuoco, cioè sono cose ormai, vedi, sono delle cose effettivamente filastrocche. Vedi perché io voglio che intervengano le donne a questo programma, perché sono nettamente più sagge. Questa è una verità assoluta. Sono discorsi di tale buon senso che poi si la sente la retorica e qualcuno ci scrive siamo buonisti, ma è così ragazzi, è che... Grazie Monica. Grazie. Grazie. Sono Irene. Da anni. Salve. Ciao Monica. Monica, ciao. Forse lotitiana di provincia di Salerno con tifoso della Lazio. Irene. Ciao. Come va? Carlo, io parlo solo con te perché il tuo collega lì mi ha fioppato 2 anni di più, Ma no, ma non è colpa mia, ma tu ne hai 27, ecco, va bene? Me l'hanno scritto, la colpa è di Piantanida. Piantanida è un sex symbol e quindi pensa di potersene fregare di tutto perché ha sempre avuto donne a prescindere da qualsiasi comportamento e qualsiasi galanteria, no? Irene è appena maggiorenne, sì. Esatto. Dimmi, okay. Irene. Allora, ascoltate, io non ne posso più di queste prime donne che sono gli ultra, tu saranno 50 o 100, a me non interessa, a me sembrano persone con una patetica smania di protagonismo, quelli che entrano 10 minuti dopo perché sono offesi, quelli che durante il minuto di silenzio, che voglio dire cosa c'è di difficile da capire nella parola silenzio, cantano i cori di chiesa. D'altra parte ultra sono sicura devotissimi alla Madonna, voglio dire, i veronesi sono famosi, e cioè è semplicemente questo bisogno di far cacciara perché così si parla di loro. Allora, probabilmente chiudere allora lo stadio, dare 3-0 è un po' troppo, boia Sansone con tutti i filistei, però chiudere le curve, sì, cacchio, scusate, perché non c'è più. Grandissimo. Grazie Irene. Chiarissimo. Vedi. Io sono d'accordo con loro, ma non per altro, perché sono sagge. La verità è questa, è quella che emerge. Ha ragione lei. Sono delle vogliono fare le superstar. Io non sono per la generalizzazione, però questo punto di vista di Irene è un punto di vista che ci offre un pezzo di verità, e che certamente non si può sottovalutare. Siamo al buonismo, cioè, ci dicono che in auto in via Caracciolo due ragazzi a Napoli mangiano un panino, passa un ragazzino di colore, uno dei due prende il panino e lo offre. Adesso siamo arrivano i messaggi, li leggiamo, ecco. Adesso va bene, ma che depressione, ma vado a lavorare voi pure, avete rotto, ma anche le donne ora, chi è un misogino, non lo salutiamo questo 349, no, ma le donne sono fondamentali, noi sì. Adesso andiamo a lavorare, gente, andiamo a lavorare. Vabbè, andiamo a lavorare, ma domani ci troviamo, ci sei domani? Senz'altro, di cosa parliamo? Che ne so, ma seguiamo l'attualità, magari nel frattempo succede qualcosa, no? Sì, gioca la nazionale, dovremmo inventarci qualcosa. Ah, domani gioca la nazionale. A me piaceva, tu non sei d'accordo, ma io propendevo per uno scherzo su Rami. Neo giocatore rosso. È vera la cosa del gangster style, gang allora, style. Questa me l'ha detta Piantanina, me l'ha venduta lui, quindi io ve la vendo così a voi. Pare che questo l'anno scorso giocava nel Valencia, si è infortunato a un piede perché ha accettato un invito a una serata a Lille dove giocava, era giocatore di Garcia. Bene, è andata questa serata, ha ballato il Gangnam Style, si è infortunato al piede, gli hanno fatto un mazzo così. No, si aggiungerebbe semplicemente alla galleria degli infortuni strani del Milan, da Dida che si si piglia il colpo della strega. Vabbè, questo è successo prima, panchina a Parma. Non lo puoi imputare alla squadra successiva. Vabbè, ho capito, però insomma, Ronaldo che calcia però in tribuna la presentazione della, della squadra e si fa uno stiramento, eccetera, eccetera, eccetera. Beh, domani. Sì, domani. Che ore sono? Possiamo chiudere? Dobbiamo chiudere? Tu hai... 15:16 purtroppo dobbiamo chiudere per andare avanti a parlare con gli ascoltatori. Li riconvoco tutti domani, domani, perché tanto siamo qui. Grazie. E andiamo a vincere, grandissimi. Ciao. Grazie per Luigi Pardo, Franco Piantarini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti, regia. Ciao a tutti.